Buongiorno Carlo, complimenti per la trasmissione. Grazie. Sono un interista incazzatissimo. Io te la facevo un tiro, la palla che ti facevi il tiro io non girava mai, andava fisso e andava sempre allo stesso posto. Io la maggior parte delle colpe le do al presidente, perché non so, magari per il lavoro che fa con i fumi del gasolio si è rovinato il cervello. Tutti convocati di Carlo Genta. Vede, e questo è perché io devo riflettere su me stesso. Ecco, lei ha centrato perché un allenatore come me, che di solito, grazie a Dio, sono contento della carriera che ho fatto 12 anni quasi ininterrottamente, sempre a cercare di tirare all'osso tutti i giocatori, deve capire se ha ancora questi stimoli, se rimane con lo stesso gruppo, nello stesso posto. Ecco. Prima si parlava delle zone, le ultime settimane, del fatto che io avessi già deciso di andare via. Credo che in questo momento, ripeto, parlare del mio futuro non ha senso. Non voglio parlarne, vi chiedo cortesemente di aspettare 10 giorni, tanto ormai manca 10 giorni, poi saprete. I don't know why, I don't know how, thought I loved you but I'm not sure now. Seen you look at strangers too many times. Love you want is of a different kind. Fall down, babe. Watch them all fall down. Fall down, babe. Dumbing or dancing. Fall down, babe. Watch them all fall down. Fall down, babe. Buongiorno a tutti ragazzi, Franco Piattanini, autore di questo programma, Roberto Scaltritti in regia. Domino Dancing, Pet Shop Boys, l'abbiamo inventato ieri, oggi vedo furoreggia sui giornali, non naturalmente per mezzo nostro, ma perché è l'argomento del momento. E come Agnelli ci tormenta con la storia del 31 Scudetti, l'ha detto anche stamattina in una cerimonia ufficiale in consiglio comunale a Torino, sono 31 per la passione, i conti sono qualcosa di diverso, e allora io vi tormento con Domino Dancing fino a quando tutti gli allenatori non avranno trovato, tutti questi allenatori a spasso non avranno trovato una panchina. Accetto i vostri suggerimenti. 800240024 è il numero verde. Allora, oggi voglio parlare di due allenatori di Livorno che, come sapete, sono Mazzarri e Allegri. E allora, ho un toscano, non di Livorno ma di Firenze, che però quella città la conosce forse meglio dei livornesi. Fa il procuratore di tanti giocatori e di tanti allenatori, è Carlo Pallavicino, che conoscete bene. Ciao Carlo. Per carità, non dire allenatori che qui ci deferiscono immediatamente. Sì, che non si può, va bene, ok, sì. Ecco. Gli allenatori fanno i conti per loro stessi, va esatto. Bene, ma quello che dico io, Mazzarri e Allegri, due livornesi in cerca di panchina, secondo me sì, perché io sono dell'idea che Mazzarri andrà via da Napoli, e sono anche dell'idea che faccia benissimo, perché meglio di così non può fare, e gli allenatori mica non avranno i procuratori, ma mica sono fessi, perché quando arrivano al vertice è giusto che vadano da un'altra parte. Più di così Mazzarri al Napoli non può, dal Napoli non può spremere. Questo era un vecchio adagio di Italo Allodi, che come ben sai inventò il suo percorso allenatori e disse: andate via dalle sì. società nel momento di massimo fulgore. Quindi... E Mourinho avrebbe detto che non era Pirla. Esatto, esatto. E questo mi sembra accadere anche adesso, e vediamo che queste sono le due settimane di ogni anno riservate agli allenatori, poi per fortuna ritornano a fare il loro mestiere, perché sono un po' stucchevoli tutte queste mettersi alla finestra. In fondo gli allenatori son belli da vedere quando parlano di calcio, parlano di tattica, fanno il loro mestiere, vederli un po' alla fine mettersi alla finestra insomma non è tanto elegante, anche perché poi voglio le garanzie, e i tifosi che garanzie possono chiedere invece? Quelle sono di restare tifosi a vita della propria squadra. In fondo hai fatto una cavalcata un anno intero con un gruppo di giocatori, un'ora dopo che raggiungi l'obiettivo, il traguardo, che comunque si chiude la stagione, è come se te ti mettessi su un piedistallo diverso rispetto agli altri. E questo oggettivamente a livello sportivo non è bellissimo. Quando poi si parla anche di soldi, che bisogna investire più soldi, ci vogliono investimenti, in un momento come questo mi sembra che è come se ci si dimenticasse la realtà. Sì, poi in parte bisogna distinguere, perché Mazzarri si è messo alla finestra e l'ha fatto anche l'anno scorso, mentre Allegri verso la finestra ci è stato spinto. Sì, esatto. Beh, diciamo che Mazzarri in questo è veramente un maestro, perché ogni anno, che abbia il contratto, non lo abbia, riesce ed è riuscito in questo modo ad arrivare ad avere gli ingaggi milionari, meritatissimi, perché lui è partito da Cireale, dove guadagnava veramente qualche decina di migliaia di euro, e anno dopo anno ha sempre raddoppiato, un po' con questa strategia che infatti non a caso a Napoli c'è qualcuno un po' stanco, al di là della del grande rispetto per questo allenatore, però effettivamente questo ogni anno mettersi un po' alla fine stanca un po'. E beh, d'altra parte lui ha fatto sempre meglio, no? Vuoi in Europa l'anno scorso, quest'anno ha fatto un campionato che onestamente il Napoli probabilmente non vale i punti che Mazzarri è riuscito a spremere da questa squadra. Poi è anche un allenatore un po' integralista, di quelli che ti mettono tanta pressione addosso, che insomma che creano questa sorta di kibbutz in cui ognuno deve dare agli altri e deve dare il massimo. Insomma, gli allenatori così non sono fatti per durare a lungo all'interno di un gruppo. No, soprattutto anche poi all'interno di certe società, che hanno poi a loro volta caratteri molto forti. Io continuo comunque a credere che Mazzarri veramente ogni anno si sia superato. Tutti i giocatori, ora sto esagerando, ma insomma le rose che lui ha avuto le ha sapute sempre rivalutare e migliorare, quindi è stato veramente la fortuna anche di tanti presidenti e di tanti direttori sportivi, perché grazie a lui sono riusciti a ripiazzare i giocatori che probabilmente non hanno più fatto quelle stagioni senza Mazzarri. Certo, d'altra parte insomma De Laurentiis l'anno scorso ha monetizzato Lavezzi, quest'anno monetizzerà giustamente Cavani e comunque sono due prodotti, non dico di Mazzarri, sono due intuizioni del Napoli che Mazzarri ha saputo far rendere al meglio. Caro, ti chiedo un istante di pazienza per il traffico e poi chiudiamo il discorso con te e cominciamo a parlare con gli ascoltatori. 800 24 00 24, come sempre tutti convocati a schema libero, parliamo di quello che volete, ovviamente di sport sempre, perché io voglio capire da te che cavolo vuole Antonio Conte, chi vuole Conte, perché questa storia la capisco ma non fino in fondo. Tutti convocati. Vai, ho un sacco di messaggi anche 349-238-6666. Napoli merita un allenatore entusiasta di allenare questi colori, non mi pare che siamo il Pescara, scrive Claudio. Mazzarri è entusiasta di allenare questi colori, però va a battere cassa per i soldi, e pare comunque l'offerta del Napoli sia elevata. Va a battere cassa per i giocatori, perché sa bene che il suo ingaggio può essere questo se raggiunge i risultati che ha raggiunto. Diverso se invece gioca una stagione sottotono, come potrebbe essere anche possibile. Carlo Pallavicino, Conte resta la Juventus, tanto per cominciare? Ma sì, assolutamente, sarebbe veramente un uxoricidio. Un uxoricidio, sì. E no, Allegri resta al Milan? Sì, resta anche lui, ormai anzi. Subcondicio? Subcondicio presidenziale. Ovviamente, ma lui è ormai anche affezionato alle critiche di Berlusconi. Ma sai, ti dico, ma su questo qualche dubbio ce lo metto, caro mio. Quando uno ti dice il mio allenatore non capisce un cazzo in Veneto, e il mio allenatore, come ha detto, ha rivelato l'altro giorno Squinzi, non capisce niente perché mette Sharawi in panchina. E sai, dopo un po', questo gli ha fatto fuori Ronaldinho, mettendo le basi per uno scudetto, perché esatto. Ronaldinho era una palla al piede del Milan e di Allegri, quindi è stato bravo da molti punti di vista. In questa stagione, secondo me, è stato più bravo del solito, perché ha fatto la sua migliore stagione al Milan. Verrà confermato, come dicono tutti, sub condicio presidentialis. Ma non a caso è livornese, voglio dire, penso che abbia le palle larghe per sopportare. Sì. Chi cavolo vuole Conte? Chi vuole Antonio Conte per restare alla Juventus? Ma è una domanda molto secca alla quale non ho risposta. Credo però, come abbiamo detto fino adesso, che voglia soprattutto vendere cara il suo rinnovo, non tanto in termini economici, ma quanto far pesare il fatto che lui resta, ma resta e la sua permanenza non deve essere considerata scontata. Questo. Quindi tu dici che vuole più soldi, per essere chiari? Io dico che vuole essenzialmente vedere riconosciuto il fatto che lui resta. E potrebbe anche non restare, ma resta, e quindi fa un po' pesare questo, no? È un po' il discorso che abbiamo fatto iniziale. Dare per scontato che resti è un po' come quando hai la moglie che dai per scontato che c'è sempre, ecco. Sì. In qualche modo la vendicare la pelle, ma ripeto, non credo sia un fatto economico, perché credo che economicamente Conte comunque sia più che soddisfatto. Cioè, fa un po'. Allora ha ragione Agnelli che ha bisogno di una carezza. Sì, diciamo di sì, diciamo bah. Di sì. Secondo me vuole qualche giocatore. E secondo me uno che vorrebbe è Jovetic. Non lo so. Jovetic è un ragazzo molto bravo, molto sensibile. Secondo me, una persona che veramente merita il massimo. Devo dire che quest'anno è stato un po' confuso, nel senso che è rimasto a Firenze, ma forse la sua testa era già pronta per andare via nella scorsa estate. Quindi, secondo me questo è stato un anno nel quale non si è visto quanto di buono può fare. Magari, ecco, potrebbe anche essere che questo accada andando via. Non credo però alla Juve, perché Della Valle pare che proprio anche ieri l'altro abbia ribadito che lo dà a tutti tranne che alla Juve. Lo ha detto a un suo amico di provata fede come Clemente Mastella, quindi noi dobbiamo crederci, no? Sì, ci crediamo, o quantomeno facciamo finta. Intanto Mancini si è fatto dare dell'arrogante e vanitoso perfino dal magazziniere del City. Però, come dicevo ieri, Mancini è uno che non mi è personalmente simpatico, non mi era simpatico neanche da giocatore. Ubacanetu lo chiamavano a Genova, il padroncito, il padroncino, no? Sì. Però è uno che vince ed è uno che comunque i quattrini sa sempre dove andarli a pescare, perché adesso tra Paris Saint-Germain, dove Ancelotti in questo domino andrà al Real Madrid, e si tratta di aspettare la finale di Coppa del Re, di risolvere il nodo della clausola rescissoria del suo contratto, ma sono questioni che verranno risolte o lì o da un'altra parte, in Francia, al Principato di Monaco, dove ci sono i russi. Insomma, Roberto Mancini riuscirà a farsi coprire di dobloni comunque. Io credo che di Roberto Mancini voi dovreste stare nelle rubriche di economia, perché è il vero, bravo, possibile. Compriamo le azioni di Mancini, esatto. Se si quota in borsa, io vabbè, non ho soldi, che cavolo compro? Me li presti tu? Compra Mancini direttamente. Grazie Carlo, ciao, alla prossima, ciao, un abbraccio. Antonio è venuto a trovarmi a casa, quindi sempre a casa, allo stesso divano, e abbiamo discusso di nuovo un paio d'ore. Credo che avesse anche bisogno di una carezza. Dunque, questo era Agnelli, che abbiamo già sentito quando ha dato una carezza ad Antonio Conte, metaforica naturalmente. Ma Agnelli oggi è tornato a parlare, poi non dite che, insomma, che sono io, sei tu che tiri fuori ste storie. Io? Agnelli questa mattina, cerimonia ufficiale al comune di Torino, in consiglio comunale, consegna, c'era Buffon, consegna della maglia autografata da tutti a Fassino, e torna la questione del pallottoliere. Credo che abbiamo fatto due riferimenti che mi preme comunque puntualizzare. È chiaro che le contabilità della passione sono diverse dalle contabilità ufficiali, e quindi da parte mia non posso che rimarcare quello che tutti quanti noi juventini abbiamo nel cuore. Gli scudetti per noi sono 31. Ma d'altronde, essendo in una sala istituzionale, il numero a cui si fa riferimento è quello degli albi ufficiali. Questo è il rumore di qualcosa che mi è caduto per terra, non so cosa. 800240024, numero verde. Io voglio parlare con voi, anche con chi mi scrive: ti piace Mourinho, ami Valentino Rossi, note evasore. Di nuovo, che palle! Che mi sono appena cadute. Puoi non dire che non sei interista. Ma non sono interista, ma cosa c'entra? Cosa c'entra che mi piace Mourinho? Mi piacciono i personaggi dello sport. Ci sono dei personaggi che ormai alla mia età ormai avanzata mi divertono, altri mi divertono di meno. Cosa posso fare? Matteo Pescara, buongiorno. Salve, buongiorno. Buongiorno a tutti. Nulla, io volevo fare un appunto su quali sono, secondo il mio avviso, i desideri di Conte, di Mister Conte. Secondo me la Juve avrebbe bisogno sostanzialmente di Cavani lì davanti e di Verratti in mezzo al campo. Sono questi, secondo me, i desideri segreti. Quanti soldi, eh? Bravo. Facciamo due conti. facciamo due conti e arriviamo a 85. Magari con il fatto che stanno monetizzando anche lo stadio nuovo, insomma, ci si può fare un pensierino, non lo so. Ma non lo so, secondo me per la Juventus, per qualunque club italiano e per la maggior parte dei club europei, Cavani è inarrivabile, perché a quella cifra stiamo parlando di una sessantina di milioni, insomma, è roba da sceicchi, da Bayern di Monaco, che dicono abbia sia sulle tracce di Neymar. Non ci credo neanche se lo vedo, anche primo perché al Bayern Monaco non servirebbe, secondo perché pare che sia già del Barça, quindi, ma poi insomma non credo, dopo aver non credo che sia in cima ai pensieri e alle preferenze di Guardiola. Nunzio da Latina. Ecco, sono io. È lei. Buonasera. Buongiorno. Io ho sentito prima il suo, sono tifoso del Napoli, il suo argomento trattato Mazzarri, chiaramente Allegri, con Carlo Pallavicino. Sì. Io se fossi, voglio dire, dopo l'offerta, la esagerata, secondo me, offerta che ha espresso il presidente De Laurentiis a Mazzarri, onestamente, dietro un ci penserò, io come presidente del Napoli, onestamente. Lo so. Ma lei deve fare questo ragionamento. Non lo prenderei più. No, ma va bene. E De Laurentiis si sa che è uno che insomma non le manda a dire e non le ripensa poi più di tanto. Lei deve però pensare anche questo: Mazzarri quest'anno guadagna così perché è al top con questa squadra, cioè ha ottenuto molto di più di quanto probabilmente questa squadra valesse, e quindi il suo valore di mercato è quello che sta scritto sull'offerta di De Laurentiis. Però è un pericolo per un allenatore, Mazzarri è uno furbo, è un pericolo per un allenatore restare lì, quindi eventualmente qualcosa in meno da un'altra parte, però magari per monetizzare più tardi. Non so, è un'idea mia, non so se siete d'accordo, ditemelo, 800240024. Adesso vi faccio sentire questa intervista di Dario Ricci a Lilian Thuram, grande personaggio, e l'argomento non è semplice, come immaginerete. Bisogna congratulare l'arbitro, penso che questo è molto importante, perché gli arbitri hanno un ruolo molto importante, perché credo che dà un messaggio molto positivo, perché credo che la storia ha dimostrato che da tutti i tempi c'è persone che hanno idea sbagliata, però la maggioria non fa niente per cambiare. E io credo che il mondo di calcio deve dare l'esempio. Ecco, ti senti di mandare un messaggio a Mario Balotelli? Mario Balotelli deve capire che non deve soffrire di questo, perché sai che al finale il razzismo è una cosa molto difficile, perché qualche volta le persone sorridono e non capiscono che Mario Balotelli, che è italiano, che è cresciuto in Italia e che forse da quando è piccolo lo aggrediscono sul collo della sua pelle, può essere qualcosa di molto violente. Parliamo di calcio giocato, Liliana. Ti piace la Juventus del tuo ex compagno Antonio Conte e pensi possa vincere in Europa il prossimo anno? Mi piace la squadra della Juve. Mi sembra che Antonio è un grande allenatore, perché già che quando era giocatore già era una persona molto, molto brava tatticamente, e soprattutto aveva sempre questa voglia di fare le cose per bene, sul campo e fuori campo. Aveva questo atteggiamento di leader, un leader che non parlava poco, però che dava la strada da seguire, e penso che fa la stessa cosa con la sua squadra. Per vincere il Champions League, secondo me è sempre difficile di dire si sarà il prossimo anno, però diciamo che le cose sono difficili perché credo che per il momento le squadre tedesca, anche inglese, forse spagnola, hanno un po' di vantaggio sulle squadre italiane, credo, adesso, perché i più grandi campioni non scelgono l'Italia, per esempio, per il momento. Allora è sempre difficile da dire. Tutti convocati. Mi candido per guidare il suo motorhome quando lei realizzerà il sogno di correre all'isola di Man. Ragazzi, ci andiamo tutti insieme, quest'anno è tardi, 25 si comincia, non facciamo in tempo, ma l'anno prossimo vi giuro che ci andiamo. Mi è arrivata anche una mail di un ascoltatore che viene a fare fotografo qualunque altra cosa, insomma facciamo un bel team e andiamo all'isola di Man, così io corro, non torno naturalmente, e chi mi scrive, spero che non confermino te, sarà contento. Questo messaggio credo non sia diretto a me, però per regolare l'intestino non serve premere uno, serve solo lavorare sui neuroni e respirare con la pancia, così niente stress, la causa di colite spastica. Massimo da San Gimignano, mi lancio e vi lascio questo consiglio. C'è un mio amico, un nostro amico, Stefano Valenti, noto giornalista di basket, che mi sfida su Twitter. Dimmi tre allenatori vincenti e anche simpatici. Ora, la simpatia è una questione di gusti. I titoli no. I titoli, come dice Mourinho, no. Allora, io posso dire i primi tre che mi vengono in mente, che sono appunto Mourinho, a me è simpatico, Trapattoni, Ancelotti, tralascio Guardiola che invece simpatico non mi è. Francesco, Napoli, 800240024, e siete voi convocati i protagonisti di questo programma. Buongiorno Carlo. Ciao. Allora, condivido con te un'antipatia per Mazzarri, non vedo l'ora che vada via da Napoli perché sta diventando stucchevole, però la mia domanda è un'altra. Ma no, a me non è antipatico, cioè, A me l'uomo è antipatico, il tecnico non si discute. No, aspetta, io sull'uomo antipatico non discuto, io discuto l'allenatore e il personaggio. L'uomo io non lo conosco, quindi non posso dirti. Personaggio, secondo me lui prova a essere personaggio, però come disse Mourinho, un asino non può diventare cavallo. Ma sei incattivito, capito? No, non è questo. Io la mia domanda è questa: visto che la stampa, l'ambiente calcio dà tanti meriti a Mazzarri che possono anche essere riconosciuti, la mia domanda è questa: se Mazzarri è così bravo, Guidolini allora negli ultimi tre anni cosa è stato che ha fatto sicuramente con di meno di Mazzarri, meglio di Mazzarri? Ma no, meglio di Mazzarri, insomma, possiamo discutere sul valore sul rapporto qualità-prezzo, però anche Guidolini ha avuto a disposizione delle squadre che insomma hanno avuto giocatori alla prova dei fatti importanti. Io credo che sono straconvinto. Ad esempio, la difesa di Guidolini io la prendo 10.000 volte rispetto a quella di Mazzarri, con i vari Cannavaro, Aronica, Campagnaro che andrà via, però non sono giocatori, voglio dire, non sono top player, per usare una frase abusata. Mazzarri ha fatto non bene, strabenissimo con questa rosa e con questo Napoli. Io credo che sia molto difficile, e lui lo sa benissimo, restare a quel livello, e pertanto da questo nasce, al di là dei soldi, la voglia di cambiare aria, no? Di andare magari in una realtà da risollevare, come può essere appunto quella di Roma, dove ci sono mezzi, ci sono talento, ci sono prospettive e c'è meno da perdere rispetto a quanto ci sarebbe da perdere a Napoli. Massimo, Livorno. Buongiorno. Ciao. Buongiorno. Convocato? Come no, ogni giorno, vieni quando vuoi. Bene. Devo dire, bel vivaio che abbiamo a Livorno, Mazzarri, sì, Allegri. E ma domenica, e adesso c'è Sassuolo-Livorno. È appunto, per questo io ho chiamato. Io volevo sapere, dall'alto della tua esperienza, mia, come la vedi questa volata a tre? Sassuolo, vedo da... Guarda, io vedo Sassuolo, qui è venuto il braccino del tennista. mi sembra evidente, no? Che la famosa, beh, quello è la famosa paura di vincere. Sei lì, ce l'hai, hai il traguardo davanti al naso, non ti resta che dare un colpo di pedale e tagliarlo, e non ce la fai, non ce la fai, non ce la fai, ogni pedalata diventa sempre più dura. Sassuolo ha dominato la stagione intera. A proposito di braccino del tennista, non ce l'ha a quanto pare Sara Errani, di cui parleremo poi, che debutta agli internazionali d'Italia a Roma, 7-5, 5-4 sulla McKay nel primo turno, non semplicissimo. Però voglio dire, Massimo, volata, sai, nelle volate per usare un parallelo ciclistico, e tra poco di ciclismo pure parleremo, allora quello che arriva da dietro, quello che arriva da dietro spesso la spunta. Non so cosa possa succedere tra Verona e Livorno. Io credo che Sassuolo meriti onestamente e sportivamente la promozione in Serie A, perché ha stradominato questo campionato e poi si è impastato sul più bello, o si sta impastando, non lo so. Chi arriva da dietro, normalmente chi prende la ruota riesce a vincere la volata, a meno che non sia Petacchi, che invece era uno che la volata la prendeva lunga e la vinceva. Quindi è molto interessante tutto questo, e sarà molto interessante vedere come Sassuolo affronterà la partita con il Livorno, dopo questa specie di psicodramma che è durato qualche settimana. Io credo che rivedremo almeno in parte il Sassuolo che ha dominato il campionato. Poi magari mi sbaglio, come al solito. Per piacere fammi bere, c'ho una sete favolosa. Al mio amore guardi una gattosa, sono in fuga per la maglia rosa. Lascio le finestre spalancate, passa il giro per le strade, tutto il resto. E io vorrei parlare anche un po' di Giro d'Italia, un Giro d'Italia che insomma è arrivato a metà. Adesso, come sapete, comincia la parte interessante, e mi sembra che oggi si arriva sulle strade del Vaillant per ricordare una terribile tragedia della storia italiana. Si arriva con Nibali in maglia rosa, si arriva con Wiggins, che è sempre più in ritardo, però la mia idea è che Wiggins abbia altri piani, che non il Giro d'Italia, abbia altri piani gialli rispetto al Giro d'Italia. Può essere davvero l'anno buono per vedere un siciliano in rosa a Milano. Sentiamolo allora, Nibali. Avevo optato io di montare dei rapporti molto agili oggi, un 36-29 e 52. E nel momento che dal 36 salivo sul 52, la catena non ne voleva sapere di andare su e non agganciava la moltiplica e cadeva in continuazione. Quindi ho dovuto aiutarla con le mani a salire, però niente di particolare, è andato tutto molto bene. Questo era Nibali dopo la tappa di ieri. Intanto, primo caso di giro al doping. Io ho vissuto personalmente dei giri d'Italia, ho seguito dei giri d'Italia in cui ogni sera arrivava la Guardia di Finanza e c'era da correre dietro alle sirene blu. Primo caso di giro al doping, doping al giro, insomma, estromesso dalla corsa, non certo un fenomeno, uno che non ho mai sentito. Si chiama Sylvain Georget, francese. Nelle sue urine è trovato lo stimolante eptaminolo con l'H davanti, quindi gli imbroglioni non sono stati tutti debellati, ma d'altra parte lo sapete, questo lo sapete anche voi, anche se io continuo a credere, guardando le medie, guardando anche e soprattutto la faccia dei corridori, che la strada sia quella corretta. Poi a me il ciclismo piace da morire, quindi io non voglio arrendermi, io almeno non voglio arrendermi. Voi ditemelo, 800 24 00 24, numero verde strade. tutti convocati. Cameriere, per piacere fammi bere, c'ho una sete favolosa. Al mio amore porti una gattosa, sono in fuga per la maglia rosa. Lascio le finestre spalancate, passa il giro per le strade. Piero Augusto Stagi, nostre orecchie, nostra voce, nostri occhi al Giro d'Italia, come sapete bene. Ciao. Ciao Carlo. Ah, ci sei? Sei sì, lì? Sì, ci sono, mi sentite? Dove sei? Che stai facendo? Sono sul Vaillon. Sei sul Vaillon? Sì. Mamma mia. Che tempo c'è? È variabile. Minaccia pioggia. Che emozioni hai? Beh, le emozioni qui sono tante, perché c'è un, diciamo, un intrecciarsi di emozioni sportive e storiche. Beh, notevoli. Chiaro, chiaro. A vedere questa diga comunque ti viene fa impressione, io ti posso capire, io ti posso capire. Senti Pier Augusto, parlando di ciclismo, allora, anno 2000, partenza da Roma, eravamo insieme laggiù, primo caso di doping al giro, Eugeni Bergzin mandato a casa il giorno prima dell'inizio della corsa, poi quell'anno successe di tutto, l'anno dopo pure, poi venne Sanremo eccetera eccetera. Adesso abbiamo dovuto aspettare fino a metà del Giro d'Italia per beccare un carnea de francese positivo a una sostanza di cui non mi ricordo il nome. Sì, tra l'altro bisogna anche dire, non per sminuire, che comunque una positività per un prodotto che era lecito utilizzare, ma che andava dichiarato. No? Il regolamento parla chiaro: se tu hai un problema, il tuo medico curante, il tuo medico del team dovrebbe dire al controllo antidoping: guardate che ho somministrato questo. Sì. Tipo di, si chiama prodotti a restrizione d'uso. Sì, sì, poi vabbè, sono tanti ciclisti che usano dei prodotti non da persone sane, ma questa è un'altra. Esatto, vabbè, ma questo però. Questa è un'altra storia, potremmo allargare il discorso. E allora parliamo di ciclismo. Un siciliano che ha serie possibilità di. Boh, che spero, no? Facendo tutto il tifo, che abbia serie possibilità di portare la maglia rosa a Milano, poi vediamo. Io però ho l'impressione che Wiggins abbia altre idee. L'impressione credo che sia quella giusta, francamente ce l'ho anch'io. Sembra tutto estremamente elementare e facile, e secondo me elementare e facile non lo sarà questo giro. Si è messo bene, si è incanalato molto bene per Vincenzo Nibali, siamo a metà giro e soprattutto però mancano 5 arrivi in salita, manca una crono individuale, manca la parte più importante, questo è ovvio. E quindi può veramente succedere di tutto. Il Team Sky sta bene, ha corridori estremamente importanti come ad esempio Uran, che potrebbe comunque in ogni caso fare il gioco di Wiggins. Uran adesso è il capitano della Sky e Wiggins farà la sua cosa. Sai perché te lo dico? Perché dopo averlo visto cadere l'altro giorno, insomma, non si è fatto un gran male, però poi ha cominciato a pedalare come un cicloamatore e mi sembrava uno che dice: sono qui per non rischiare. No, in realtà sta vivendo un momento molto delicato sotto un aspetto psicologico. Ho parlato con il loro staff e lui si sente insicuro, ma quasi tutti. Basta parlare ad esempio anche con Ivan Basso, che è un nostro prezioso punto di riferimento e che non è un drago in discesa, ma che in certi momenti della sua carriera diventava veramente un pollo, come dice lui. Sì. Perché la situazione si complica, basta cadere un paio di volte, perdi quelle poche certezze che hai. Guarda, tu meglio di me ti ricorderai Ivan Basso in maglia bianca al Tour de France cadere sotto la pioggia su una striscia bianca dell'asfalto, di quelli che segnalano le corsie, farsi un male della Madonna. Era tra l'altro in fuga con Jalabert. Me lo ricordo benissimo. Senti Pier Augusto, ci sentiamo naturalmente nei prossimi giorni, perché il giro comincia secondo me adesso e le previsioni del tempo e le previsioni del tempo, dannato Giove Pluvio, dicono che saranno giorni di pioggia, freddo, vento e quindi molto molto difficili per i corridori. Grazie Pier, alla prossima. Grazie, sentiamo a voi. Più tardi per l'arrivo. Buon pomeriggio. Ciao. Duilio Pisa, buongiorno. Ciao, buongiorno. Ciao. Senti, vuol dire la mia su Ballotelli? Ma no, dimmi la tua sul Livorno, va in Serie A o no? Da Pisa? Il Livorno va in Serie A, senz'altro. Bravo! Bella gufata questa! Bella gufata! Saranno contenti gli amici di Livorno! Ci vuole Serie A Livorno! Senta, invece su Ballotelli sono un po' arrabbiato. Ballotelli, su cosa sei arrabbiato? Su cosa? Perché penso che lui dovrebbe avere un atteggiamento diverso. Anch'io lo credo anch'io. Tutti i soldi che prende lui dovrebbe far finta di niente. No, lascia stare i soldi. Dovrebbe avere... No, i soldi non c'entrano nulla in questa storia. Io sono d'accordo con te sul fatto che dovrebbe avere un atteggiamento diverso lui come tutti gli altri. Cioè... Anche perché i tifosi della Roma non sono razzisti. No, i tifosi della Roma sono quelli che hanno fatto quei cori sono semplicemente dei deficienti. No. Ma sono della gente senza niente nel cervello, dai. Ma non hanno neanche la fantasia per coniare altre cose. Sono dei semplicemente dei dementi, Duilio, dai, come on. Sedolf ci ha giocato 20 anni a Milano, non l'ha mai fischiato nessuno da Sedolf. Beh, insomma, Sedolf si è preso i suoi, ma Sedolf fa una testa diversa rispetto a Barotelli. Io sono dell'idea che questi ragazzi cui fa veramente male questo insulto, che è il più vigliacco che si possa rivolgere a un, non a un giocatore, a un essere umano, è il più vigliacco, no? Perché Maradona una volta disse: dammi del figlio di puttana ma non darmi del poveretto. Ecco, qui siamo sulla stessa lunghezza d'onda o anche di più, quindi io capisco questi che se la prendano da morire per questi insulti, e se la prendono veri, gli fa male, però se tu vai avanti li disinneschi, se tu fai finta di niente mordendoti la lingua fino a fartela sanguinare, se tu ti metti la cera nelle orecchie li disinneschi, e io credo che questo sia il modo, altrimenti siamo qui continuamente noi tutti quanti a fare da gran cassa a questi quattro imbecilli che non hanno nemmeno la fantasia di inventare uno striscione come Giulietta Nazzoccola, che è un capolavoro della letteratura da curva calcistica. Francesco, Roma. Buongiorno. Buongiorno. Senta, volevo parlare un attimo di Mazzarri, no? Sì. Lei dice che potrebbe essere una persona furba, sì, sottinteso così. Però voi dite, no, quando un allenatore fa un'impresa viene osannato. Poi magari quando lui vuole cambiare squadra per soldi, per cose, allora già si fanno le critiche. Vorrei ricordarvi che Mazzarri con la Regina ha fatto un'impresa a meno 9, non è un allenatore. Ma ne ha fatte tante. Ricordo quando la Regina stava a meno 9. Certo, Francesco, ma Mazzarri ne ha fatte tante, e io credo che questi 3 anni di Napoli ne abbia fatta una dopo l'altra, al di là dei risultati nudi e crudi, perché la stagione europea del Napoli l'anno scorso è stato un capolavoro. Quello che dico io è che semplicemente avrebbe tutto da perdere nel rimanere lì dov'è. Ragazzi, ne parliamo domani, è stato divertente come sempre, vi aspetto qui tutti convocati. Franco Piantani, autore di questo programma, Roberto Scaltritti in regia, ciao a tutti. I sogni son desideri. Secondo Cenerentola, i sogni son desideri. Tutti convocati.